Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi. In primo piano le notizie sugli attentati di Bruxelles. Un secondo uomo si trovava con Khalid al-Bakraoui, il kamikaze che si è fatto esplodere nella metropolitana di Bruxelles causando la morte di 20 persone. L'uomo è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza mentre trasportava una grossa borsa. La sua identità al momento rimane sconosciuta. Non si sa se sia morto oppure in fuga, ma il suo identikit è stato pubblicato oggi sul sito di DH. Intanto emergono nuovi particolari sull'organizzazione del comando. I due fratelli el-Bakraoui avevano intenzioni di colpire le centrali nucleari del Belgio, ma l'arresto di Salah ha fatto accelerare, cambiare tutti i piani. I due terroristi avevano nascosto una telecamera davanti alla casa del direttore del programma di ricerca nucleare. Questo video è stato recuperato dai due uomini dopo gli attacchi di Parigi. Il filmato di 12 ore è stato trovato in una perquisizione durante l'arresto di Mohamed Bakkali. E intanto un'operazione di polizia è ancora in corso a Bruxelles. Salah non ha voluto essere presente oggi all'udienza alla Camera di Consiglio di Bruxelles, che prenderà in esame il suo arresto, quello degli altri fermati per i fatti di Parigi. Il suo difensore Mary ha detto che Salah accetta l'estradizione in Francia, dove vuole tornare il più presto possibile. Fino a qui la cronaca, ma a pochi minuti dall'inizio della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri dell'Interno europei, i ministri dell'Interno e Giustizia belgi hanno presentato le dimissioni che il Premier Michel ha rifiutato. È vero, si aggiornava da Bruxelles? Sì, è vero, le notizie di poco fa, entrambi ministri dell'Interno e della Giustizia belgi, tra l'altro loro stessi avevano chiesto in qualche modo la convocazione di questa riunione straordinaria dei colleghi dei ministri dell'interno della giustizia europei, hanno presentato dimissioni, respinte anche perché lo stesso Charles Michel, premier belga, ha detto: in questo momento, in questa situazione di emergenza, non posso privarmi dei ministri, quindi di fatto lasciando aperta l'ipotesi e la porta a una possibile poi accoglimento delle dimissioni più avanti, quando questa emergenza sarà passata. Tra un'ora circa cominceranno ad arrivare i 28 ministri dell'interno della giustizia europei. Per l'Italia ci saranno Alfano e Orlando. Le misure di sicurezza sono particolarmente eccezionali anche per noi giornalisti, che per entrare già abbiamo dovuto pazientare abbastanza. Le misure appunto sono a livello di massimo 4. Cosa si aspetta? Ci si aspetta sostanzialmente non moltissimo: 2 ore di riunione, una dichiarazione congiunta di condanna degli attentati e di impegno per portare avanti le misure di coordinamento contro il terrorismo già decise, già stabilite, e anche per fare il punto della situazione. Si può sperare forse che anche sull'onda di questo ennesimo attacco si vada un po' oltre, ma le attese non sono in questo senso così benevole. Staremo a vedere tra un'ora i primi arrivi da Bruxelles. Tutto. Grazie Sergio Nava. Il punto centrale resta dunque la riforma dell'intelligence. Che cosa non ha funzionato in questi anni? Quali sono le soluzioni messe in campo? È necessario migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence dell'Unione, creare squadre di investigazione comuni, condividere tutte le informazioni utili sul terrorismo sistematicamente e senza indugi. Erano le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001, all'indomani dell'attacco delle Torri Gemelle. Da allora 15 anni sono passati, ma l'Europa non è ancora stata capace di risolvere il dilemma su come conciliare sicurezza e privacy, e così l'istituzione di un intelligence europea resta ancora una chimera. Lo testimonia la facilità con cui Salah Abdeslam si è riuscito a spostarsi prima e dopo gli attacchi di Parigi, o il fatto che i terroristi delle stragi di Parigi e Bruxelles fossero già noti. 15 anni dunque, intanto la minaccia fondamentalista cresceva. Solo qualche piccolo passo in avanti è stato compiuto. A gennaio presso Europol è stato avviato il centro di eccellenza antiterrorismo europeo, ma solo il 3% del suo bilancio è servito per migliorare le tecniche di contrasto agli stragisti, mentre i dati su cui lavorare sono ancora pochi. C'è poi Eurojust, pool di 28 magistrati, uno per ogni paese membro, che dovrebbero coordinare le autorità giudiziarie, eppure questa collaborazione non decolla. Esiste il SIS, lo Schengen Information System, a cui vengono comunicati i dati su persone sospette o soggette a restrizioni, ma SIS ed Europol non si parlano ancora in modo dovuto. C'è infine il famoso PNR, il registro europeo dei dati dei passeggeri delle linee aeree, la cui entrata in vigore è ancora subordinata ad un voto del l'Europa. Parlamento. Un voto che tarda ad arrivare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ritorniamo dunque questa sera all'interno di Effetto Notte per una nuova puntata, un nuovo appuntamento con Europa 24. Vi saluto qui, Daniele Biacchese. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.